È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Troppi affari cavaliere, ma lasci star le società, le altre cento attività. Beh, Berlusconi impegnato su più fronti, caro Parenzo. Come lotta al presidente. Impegnato su più fronti, la beatificazione del Papa, naturalmente ieri, poi il Tribunale di Milano questa mattina. Vi faccio risentire... Berlusconi sul comunismo, c'è un'appropriazione di Papa Wojtyla da parte di moltissime persone, per carità, però Berlusconi dice: io e lui la pensavamo nello stesso modo nel giudicare il comunismo una cosa criminale, che per carità criminale è stato il comunismo, però... Ricordiamoci che il comunismo non è finito del tutto, ci sono ancora paesi importanti che hanno applicato quell'ideologia, e io mi ricordo che parlandone con lui io gli dissi che ritenevo che questa filosofia, quell'ideologia fosse la più cinica, la più disumana, la più criminale della storia dell'uomo, e lui convenne con me su questa mia osservazione. La filosofia più criminale della storia dell'uomo, e lui era lui d'accordo. Lui convenne con me. Poi come ormai non può smentire. Cioè, non è che può dire non è vero, è vero che Papa Wojtyla, insomma, col comunismo un qualche conflitto ce l'aveva. Allora, Gabriele Albertini, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, abbastanza bene. Sì. Allora, vediamo subito dire le prime notizie. No? Albertini notizia voterà per Manfredi Palmieri alle subito prossime primo turno per Manfredi Palmieri. Albertini, smentisco questa illazione capziosa che cercate di cavarmi come il dente del giudizio. Albertini, due punti, la Moratti non ha governato benissimo. Questa è la seconda notizia. Smentisco. Dunque, possiamo smentire che lei, come era trapelato nelle ultime ore, voterà per Manfredi Palmieri. Non era trapelato alcunché. Siete tremendi. Trapelato nulla. Volete farmi mettere nelle segrete di Arcore? No, non sia mai, perché dai, lei ci diverte, perché però, se per esempio qualcuno la prendesse adesso fuori, dopo che lei ha dichiarato, come ti dichiarerà, che voterà per Manfredi Palmieri al primo turno. È una cara persona, ma non lo voto, non posso. È una cara persona, ma non lo voto. Che significa cara persona? Una cara persona per esempio, è una persona molto leale, cordiale, piacevole, ma simpatica, per intelligente, di partito. Intelligente e anche quel giusto equilibrio tra ambizione e capacità, perché immaginiamo quando c'è troppa ambizione e scarse capacità, tante persone che occupano ruoli importanti. Più qualità della Moratti, no? Altre il contrario, no? Cioè grandi capacità ma nessuna ambizione, quindi sterile il loro agire, mentre colui è nel giusto, ha delle richieste dalla vita, dalla sua attività politica, per la sua carriera, però ha le capacità per percorrere questo itinerario che credo gli darà delle soddisfazioni. Stiamo parlando naturalmente parlo delle elezioni bene del, di America, molto però, più quelli della Moratti, mi sembra di capire, no? Questo lo dice lei. Beh, no, e lei ma descritto... se uno dice, è uno bravo, capace, se lo merita. No, perché io non sono un fazioso, come molti altri forse invece vorrebbero essere. No, però ho sempre dato anche agli avversari, anche ai non collegati, diciamo, agli antagonisti, ho sempre dato credito di qualità, perché vivo in questo sistema di valori, insomma. Comunque, sono un liberale democratico. Riconferma, voto la Moratti al primo turno, giusto? E anche al secondo. Per disciplina di partito, aggiunto. Eventualmente. Per disciplina di partito. Per disciplina di partito. È un'aggiunta non da poco. No, per disciplina di partito, perché è la prima cosa che viene in mente è tessere a 216, però devo dire anche in relazione all'amministrazione. Turandosi il naso? No, il naso. Io poi sento pochissimo gli odori, non so, spero che di non essere troppo... Questa è una notizia, No, non mi turo il naso perché sento no, poco gli odori. No, non mi turo il naso perché non ne ho bisogno di turarmi, nel senso che in questo caso non c'è... Voi siete tremendi, però. Però a tennis con me. Non sarebbe e poi voi siete in due, io sono da solo. Questo è vero. Questa pallina che continua ad andare oltre cosa la rete, direbbe poi l'avvocato? Cosa direbbe l'avvocato in questo caso? Ma io credo che a Milano non ci siano alternative a un'imprenditrice al governo della città. L'ottimo Pisapia è una cara persona, un bravo legale, un avvocato di grido, ma credo che non sia nella condizione per uno schieramento così. C'è anche un candidato del terzo polo, avvocato? Il candidato del terzo polo è un giovane ragazzo che si farà senz'altro, ma gli daremo un'occasione migliore tra qualche anno. Ora deve arrivare terzo. Allora, come avete potuto immaginare, siamo alla Zanzara su Radio 24, inevitabilmente 800 24 00 24. Il nostro primo ospite, l'ex sindaco di Milano nonché europarlamentare del PDL, altre cariche ancora che non mi ricordo più, presidente della commissione affari esteri del Parlamento Europeo, Fantozzi Albertini. E anche un altro presidente, anche presidente, pure presidente del come si chiama? Non mi ricordo più. Eddie Power. Sì, sì. Vabbè, ancora non abbiamo fatto il consiglio perché stiamo litigando con i francesi, quindi presidenti di garanzia. Ma che però questa sera la cosa importante è fondamentale. Questa sera sarà. Allora, appello a tutti quelli che sono a Milano e dintorni. Cittadini! Presentatevi, perché ne vale la pena, perché è per beneficenza. Ma anche per beneficenza. Ma anche per ascoltare, vedere qualcosa di interessante, di inedito soprattutto. Gabriele Albertini sarà al Teatro Litta a Milano, Corso Magenta. 24. 20 e 30. Come Radio 24, così un'associazione. Beh, questo non è male, non ci avevo pensato. Corso, da Radio 24 lei andrà a Corso Magenta 24. Interessante. Milano. Per uno spettacolo in cui ci saranno anche le sue famose, come avete sentito ormai, imitazioni. È un'iniziativa che la Fondazione ha preso di invitare persone conosciute con talenti, talento è tutto da spiegare naturalmente, da vedere se c'è, talenti sconosciuti. Nel mio caso lo spettacolo è autore, attore, imitatore, inaspettato. Senta Albertini, ma Bossi... che non vuole fare la guerra in Libia. No, i nostri ragazzi non devono andare a tirare le bombe a Gheddafi, devono lavorare qui, fare bene il nostro lavoro. Ma ci sono gli accordi internazionali. La risoluzione dell'ONU. Gli accordi internazionali io mi ci pulisco. Cosa? Non lo dico perché dopo mi dicono che parlo greve, che parlo, sono volgare. Però avete capito, no, no, abbiamo capito, segretario, però il problema è serio, cioè secondo lei è giusto uccidere Bin Laden? Scusi, è giusto uccidere Gheddafi? È lapsus sulla giornata. È giusto uccidere Bin Laden, il responsabile di atti di terrorismo che hanno ucciso Laden, migliaia di Gheddafi, innocenti. Gheddafi, secondo Gabriele Albertini, è giusto uccidere Gheddafi o no? Diciamo che da un punto di vista cinico, di realpolitik, risolverebbe il problema della guerra civile in Libia, che è un danno per i libici e per tutto l'Occidente. Dunque il nostro obiettivo dovrebbe essere anche meno ipocrita, dovremmo puntare a uccidere Gheddafi. È un fatto di grande cinismo, però è un fatto anche di grande realismo, cioè eliminata la leadership del colonnello Gheddafi, credo che la guerra civile sparisca in pochi attimi e le vittime l'obiettivo della guerra civile sono presidente della commissione esteri. Sì, no, io non lo dico come auspicio, faccio solo una contestazione. Fortunatamente non ho la responsabilità di guidare i Navy SEAL oppure gli attacchi NATO. Realisticamente, a questo punto bisognerebbe puntare a uccidere Gheddafi. Realisticamente, l'intervento più chirurgico e più efficace, ancorché si tratta di un'operazione che da un punto di vista dell'etica non è diciamo accettabile, però insomma, quante vittime civili e anche militari, migliaia di persone possono perdere la vita in un conflitto a lungo termine che riguardi l'intero paese. Sì. Se per qualche ragione ci fosse un attentato a Gheddafi e l'esito di Bin Laden lo riguardasse, anche un'operazione di questo genere, credo che la guerra civile in Libia si fermerebbe. Si affermerebbe invece la leadership degli uomini che stanno guidando la rivolta e ci sarebbe un sovvertimento. Come è stato traumatico quello che ha portato al governo Gheddafi, non è andato per via elettorale democratica al governo 42 anni fa. E poi nell'arco degli anni ci lamentiamo e abbiamo esultato per la fine di Gheddafi, ma insomma negli anni 70 il capo del terrorismo internazionale, forse Bin Laden non era ancora nato, era Gheddafi. Senta, ma Il presidente Reagan aveva già pensato alla soluzione che abbiamo evocato poco fa, cioè di farlo, no? Non c'è dubbio, certo. Beh, quando hanno bombardato nell'86, quindi Alberti, farei come Reagan, cioè, le piace quelle... insomma, da un punto di vista etico non è una bella sintesi, da un punto di vista pratico, diciamo, di realpolitik, è chiaro, farei che risolverebbe il problema, uccidere il dittatore con una vittima, si risolvano un sacco di problemi. Sai che c'è l'ambasciatore, ex ambasciatore israeliano in Italia, no? Che è interpellato a porta dopo l'uccisione dello sceicco Yassin. Disse: ci sono gente che fanno un mestiere pericoloso e quindi bisogna uccidere. E questo è vero, cioè, cinicamente è vero. Yassin faceva il terrorista, non è che faceva la mammoletta. Appunto. E quindi va messo in conto. Quindi Alberti, abbiamo il traffico, torniamo subito. Chiedo scusa. Eccoci qua, 18:47, 800 24 00 24. Albertini imitatore qui alla Zanzara, e anche stasera ormai a teatro, e anche stasera a teatro, non solo imitatore, reciterà anche un suo racconto e poi dei passi, dei diciamo, brani classici, dei brani signor classici. G e l'imperatore. Qual è l'imitazione che le viene meglio? L'avvocato, credo. L'avvocato è anche quella, visto che siamo qui nella sede della Confindustria, comunque è anche quella che, in cui mi piace di più identificarmi, perché è stato per molti anni il leader di tutti gli imprenditori, a cui categoria a cui ancora appartengo. Che salutiamo, un po' il mito, tutti gli imprenditori all'ascolto, è vero? Imprenditori all'ascolto. È vero, è vero che qualcuno le ha raccontato, forse lo stesso Agnelli o Berlusconi, che hanno avuto una donna in comune, i due? Io non so, racconto le cose prima della trasmissione e poi me le trovo qua inspiegabilmente. No, ma non siamo in diretta. Siete, non siamo in diretta. Perché oggi andiamo. Ci racconti questa storia. Ho anche l'anello al naso adesso. Ma dunque, questa si risale a una decina d'anni fa, e in effetti è una confessione del presidente Berlusconi, parlando così in grande simpatia e cordialità delle sue esperienze muliebri, insomma parlando con l'avvocato, cioè, con l'avvocato Agnelli, con le donne, insomma, no? Sì, parlando con l'avvocato Agnelli in una circostanza, avevano scoperto che insomma c'era stato un flirt, non so in quali periodi della loro vita, se prima di sposarsi. Sì, prima sicuramente, figuriamoci per lo scorso, qualche piccola infrazione forse si può sotto questo aspetto. E comunque insomma, avevano scoperto di avere avuto una donna molto... E chi era? E il nome non l'hanno fatto da veri gentiluomini. Non si fa mai il nome, infatti. Una donna in comune. Una donna no, in ma comune. Non nello stesso periodo, in periodo diverso. Ah, non nello stesso? Ne bis in idem, insomma. Ecco. Come, scusi? Noi siamo gente del popolo, non due persone nello stesso caso, è un termine giuridico. Insomma, la notizia è questa, ecco. Berlusconi ha raccontato di aver avuto una hanno scoperto di aver avuto una donna in comune con l'avvocato Agnelli, e allora dopo questo racconto in cui anche tu, a un certo punto pare che l'avvocato Agnelli abbia pronunciato questa frase, la patonza deve girare. Termine stupendo, direi, da grande signore, da grande, e anche insomma realistico, perché effettivamente una donna molto bella, insomma, deve girare. È un questione che è un peccato privare l'universo maschile delle proprie grazie, no? Cioè, si potrebbe dire, insomma, o gli uccelli o i vermi. Il proprio corpo o agli uccelli o ai vermi. Immagine meravigliosa. Com'è che disse allora esattamente? Com'è che disse l'avvocato esattamente? Questo è relata refero. Vabbè, relata refero. L'ha detto Berlusconi. Dunque, noi quando dice una cosa a Berlusconi. Ma magari non mi ricordo bene. Forse ha fatto un po' di confusione. Magari non mi ricordo bene. Lasciatemi una via. La patonza. Com'era? La patonza delle giugate. Eccezionale. Che simpatico, veramente, l'avvocato. Assolutamente. Spero che sia quell'uomo umoristico che ho conosciuto. Se ci vede adesso e ci ascolta, non se ne abbia troppo male. Lo prendiamo un po' in giro, ma simpaticamente, capisce, e con un certo affetto. Beh, comunque l'imitazione numero uno, quella dell'avvocato. Sì, poi sì. Bossi. Beh, abbiamo poi già Bossi poco. Tremonti una volta ce l'ha fatta, noi poi non vuole più fare. No, ma non mi viene bene. Poi i classici di allora, perché Abbatantuono? Battantuono, Saragat, Ungaretti, Paolo VI. Questi non se li ricorda più nessuno. Ma spero in un pubblico di coetanei, insomma. A Battantuono com'è? A Battantuono, tu dici che sono terroncello, ma io sono milanese 100%. E se dici un'altra volta che sono terroncello, con queste mani piccole tozze che sempre do badilet, ti faccio la faccia golf come un pallone del Milan. Questa era la Batantuono di un tempo eccezionale, veramente eccezionale, veramente. E quando io avevo milanista 20 anni, come lei, milanista, lei violence, se... violence, la se... curva, quest'anno il campionato, quest'anno abbiamo già vinto il campionato, se vinciamo il campionato vado a dare un bacino alla Madonnina del Duomo, ci vado fino all'ultima guglia. Applausi, applausi, applausi per, no, per no, adesso, questa cosa della, del campionato, ecco, mi fate venire in mente un argomento. Scusi un attimo, lei l'aveva detto qualche mese qualche fa, qualche tempo fa, direi quasi un anno fa, poteva essere nove mesi fa. Vabbè, insomma, non era ancora cominciato il campionato. Aveva pronosticato lo scudetto del Milan. Mi hanno fatto una bella intervista a Milan Channel. E in quell'occasione un'intervista di quasi dicono, un'ora, all'inizio lo dicono tutti, speriamo che vinciamo il campionato. No, io avevo invece no, che io lei è stato, che dice speriamo lei, che vince, io avevo lei è detto, stato l'unico no, sindaco speriamo. L'unico sindaco milanista degli ultimi clamoroso questo è dal dopoguerra l'unico sindaco milanista, è un caso clamoroso perché la popolazione, ma lei che fa, cittadina... non è che ha intenzione di spogliarsi se Milan vince lo scudetto? Ma poi meglio di no, l'ha già fatto una volta con le mutande lì, no, sì, con le mutande, però insomma anche la Ferilli l'ha fatto per la Roma, scusi, la Ferilli lo faccia, dica lei qualcosa, un po' di buon gusto, insomma, vabbè, la Ferilli va bene, scudetto, ma io faccio qualcosa, un fioretto, dica una promessa, voti Manfredi Palmieri, l'ho detto prima che vado a bere un bacino sulla guglia più alta del Duomo, alla Madonnina del Duomo. Vabbè, questa è la cosa, questa è a Batantuono. No, questa Batantuono. E Albertini che fa? Niente. Albertini sta a guardare a Batantuono che va a fare questa, che e dirà, no, che non ci andrà. No, dirò una pregherina alla Madonnina del Duomo, che essendo Gabriele, insomma, un buon rapporto con la Madonna, no, si potrebbe mantenere, no? Se... Senta, ma ho dato una buona notizia. La sobrietà di il mio omonimo, il mio arcangelo Gabriele, ha dato una buona notizia, no, alla nostra Madonnina. Ah, certo. Ma poi c'è anche Paolo Villaggio come imitazioni, abbiamo già, sentito, sì, Paolo Villaggio l'avete già sentito in qualche altro abbiamo già sentito, sì, sì. Però ci rifaccia un piccolissimo Tremonti, perché è al centro di una diatriba internazionale in queste... E lei conquistata, tu ha visto, no? Ecco, Galan che gli ha tirato una bella sbella. No, io sono un tremontiano convinto. Cioè, tra Tremonti e Galan lei sceglie Tremonti, quello più forte, indubbiamente, ma non solo per questa è un'interpretazione un po' malevola, maliziosa del nostro amico. Anche stare più forte non è sbagliato in politica. Anzi, no? È molto opportuno, però non è sempre giusto. Questa sintesi tra giusto e opportuno è del grande statista. Non c'è in politica. Per altri è solo opportuno, per altri è solo giusto. Magari questi sono un po' troppo tetragoni, magari non fanno carriera. Ma secondo lei è Tremonti dietro questi attacchi, come ha scritto il giornale della Lega, Berlusconi sulla Libia? C'è Tremonti? No, non credo che sia niente di guidato. Magari sono delle situazioni dove convergono degli orientamenti, dei pensieri. Indubbiamente credo che Tremonti si sia trovato un po' spiazzato quando nel colloquio a cui ha partecipato con Berlusconi e Sarkozy questa sintesi si è trovata subito, un accordo de plano senza problemi. Insomma, lui aveva eccepito le scalate. Usiamo il diritto francese, usiamo le stesse leggi della Francia. Vedi, assomiglia un po' a Agnelli, non mi viene Tremonti. Però in questo... È un Agnelli Tremonti. Lo so, in questo frangente lei, siccome ha detto che bisognerebbe uccidere Gheddafi... No, io non ho detto che bisognerebbe uccidere Gheddafi. Ricito la dottrina Reagan. No, io mi rifaccio alla dottrina Reagan. Siccome abbiamo meno di un minuto, io vorrei chiederle una cosa. Allora però non mi storpiate. Berlusconi con Sarkozy ha detto che il maniaco sessuale è il monogamo. Di Sarkozy, sì, ha detto con Sarkozy. Beh, però infatti, lei è un maniaco sessuale. Infatti ha avuto tre mogli, però Sarkozy, quindi monogamo. Però monogamo durante poi durante è diventato normale col secondo matrimonio lei e col terzo. È d'accordo con Berlusconi su questa cosa? Ma da un certo punto di vista, adesso indubbiamente bisogna avere una grande risorsa interiore, insomma, per provare grandi desiderio per una vita lunghissima con la stessa donna, con le stesse cose, però lei c'è il grande amore, lei riesce a resistere? Ma alla monogamia, è monogamo lei? Sì, direi di sì. Direi, lo saprà. Ogni tanto qualche scappatella c'è. Coi pensieri. Scappatelle coi pensieri. Come si dice? Autoerotismo, come diceva Giovanardi. Autoerotismo. Sempre Radio 24, non ho la mia paura, la zanzara. Beh, insomma, se si facessero delle statistiche, credo che insomma una buona parte delle persone, ove fosse nella valle di Josafat cancellato questo peccato, ci sarebbe un certo entusiasmo. E ci sarebbe, credo, dunque, ci sarebbe anche Albertino. Perché, beh, insomma, almeno una volta. Abbiamo il giornale radio, torniamo subito. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Siamo di nuovo qui in diretta con la Zanzara 1918 dagli studi di Milano, con me Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, adesso europarlamentare, fra poco si trasferirà da Radio 24 al 24 di Corso Magenta, lo dico per l'ultima volta, a Teatro Litta a Milano per imitazioni e quant'altro, beneficenza assoluta. Beneficenza per finanziare il palcoscenico nuovo, tutta la parte scenografica del teatro che... Bene. È carente. Si presta soprattutto per quello che riguarda, insomma, non è facile mettersi alla prova davanti al pubblico con delle imitazioni, e non è un attore professionista, Albertini, come è noto. Parenzo, dove sei? Dunque, sono sulla linea rossa, direzione Cadorna. Dunque, funzionano i telefonini dentro la metropolitana a Milano, questo ormai da tempo. Tutto funziona a Milano, con un'amministrazione così efficiente. No, non si può, siamo in campagna elettorale, perché ci vuole fare riprendere. Vabbè, ma ci metto anche del mio. Signor Pisapia, ci metto anche del mio. No? Non ci denunci alla... all'authority che controlla tutto, Allora, dove andiamo? TG3, titoli? Con la Polanco? Sì, con la Polanco che li annuncia, su. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Il capo di Al-Qaeda è ucciso da un comando americano nei pressi di Islamabad. Una fuga durata 10 anni. Il corpo seppellito in mare. L'annuncio di Obama, Bin Laden è morto, il mondo è migliore, nella notte migliaia di persone festeggiano a New York e in tutto il paese. Resta alto l'allarme terrorismo, la CIA cercheranno la vendetta, il governo italiano intensificate le misure di sicurezza. Pochi fans oggi a Milano per il processo Mediatrade, Berlusconi parla anche della Libia e apre la Lega, mozione condivisibile. Bossi, il premier non è scemo, non farà cadere il suo governo. Bersani, Italia esposta al ridicolo, il Quirinale, nessuna interferenza. Ex Bertone, via il referendum sul piano Marchionne, a sorpresa la Fiome invita al sì, Landini, scelta di legittima difesa. San Pietro di nuovo colma per la messa di ringraziamento per il Papa Beato, lunga fila per il saluto alle spoglie, stasera concerto in Campidoglio. So un strano animale, so un tipo eccezionale. So il re del quartiere, te tengo il potere. Se perdo la pazienza, mi scatto la violenza. Sul mio modo fucone, mi sento un leone. Beh, una delle imitazioni, non so se più riuscite, ma una delle imitazioni, delle prime imitazioni. Sì, prime. Però l'originale, devo dire, è strepitoso. Ogni volta che lo risento, veramente c'è un gaudio, una simpatia, una gioia di divertirsi che è unica. Senta, Badantuolo, ma lo scudetto del Milan, spero, è contento. Non è che è scaramantico ancora, no? Manca un punto, manca. Quest'anno vinciamo sicuramente, alla grande, alla grande. Manca un punto, non è scaramantico, punto, no? No, e sono sicuro, vince. La domenica prossima festeggiamo a Roma, è sabato a Roma. In sabato anticipo, a Roma. Sì. Lei non vuole dire che cosa fa, se si leva qualcosa, non ho promesso niente. Ho promesso solo che la profezia si sarebbe avverata e Milan Channel mi ha detto che mi avrebbe reinvitato quando avessero avuto allora, la certezza. Cari amici di Milan Channel, si faccia crescere i capelli, sindaco, come ma piccola, lì è difficile. Bisogna andare dal medico personale del premier. Perché si fa crescere tutto, diciamo, fa crescere tutto quel medico lì. Perché il medico personale del premier che cosa fa crescere, come dice Parenzo? Fa crescere tante cose, no? No, beh, adesso questo non mi fate, non mi portate in questo terreno lubrico in cui voi amate collocare gli incauti ospiti. No, però scusi, è stato già lo stesso, le segrete lo stesso... di Arcore, sento già l'umidità di quelle segrete. Per avere rivelato questa cosa con l'avvocato Agnelli. L'avvocato Agnelli, sì. Beh, è una rivelazione molto... bella, interessante, carina, ma insomma, sì, è roba credibile. Sì. Beh, assolutamente credibile. Sì, sì. No, se io la ricordo come vera, però devo avere una via di uscita. Se fossi interrogato potrei dire tanto che, per accompagnarla ancora di più verso le segrete di Arcore o per impedirle di andare al matrimonio di non so chi. No, però ce ne sono già stato. Ah, no, ma un altro matrimonio, no, non so che cosa. Beh, insomma, diciamo, ripetiamo la famosa frase che disse l'avvocato Agnelli a Berlusconi quando scoprì che ebbero una donna in comune. No, no, io non la ripeto, l'ho detto una sola volta, ma non due, la ripeto. Due, sì, la terza non la faccio. Non c'è due senza? Il 3, no, no, ma adesso basta, no, no, no, no, no, non esagerate. Non nel, si può esagerare, nel non si può esagerare. La mia buona fede di siamo imitatore. Qui alla Zanzara, 800-24-0024, imitatore dilettante, Agnelli, Bossi, Abbatantuono, Villaggio. Paolo VI lo ricordano in pochi, pur essendo Paolo stato VI. Un grande papa, però Paolo VI lo faceva abbastanza bene negli anni. E com'era? In cui... com'era Paolo VI? Il nostro interessamento fraterno si rivolge a quelle popolazioni che soffrono la fame, che soffrono la miseria e ancora delle catastrofi della guerra. Era, ma era così incazzato Paolo VI? E aveva questo linguaggio particolare con la bocca stretta. Senta Albertina, a lei piacciono le barzellette di Berlusconi? Beh sì, direi di sì. Beh, mi diverto. Non le trovi in alcuni casi oscene, disgustose? Poco, sono correnti, diciamo che sono le barzellette che tutti noi ascoltiamo e raccontiamo tra amici un po' goliardicamente. Quella della mela però è un po' volgare. Quella della mela è un po' volgare, però diciamo che non esce da uno schema in cui ci riconosciamo in tanti. Qualcuno può criticare, forse. Ma non dovrebbe smettere ad esempio, di raccontarla in pubblico, secondo lei? Magari ecco il presidente del Consiglio. Però nel caso di Berlusconi lui dovrebbe smettere, no? Il suo ruolo di presidente con quella popolarità che gli deriva dalla identificazione di se stesso con l'italiano medio, che è una ragione del suo successo. Dunque, se smettesse di farlo, smetterebbe di essere Berlusconi. Esatto, ed è anche la sua naturale predisposizione per essere così. Quindi non si pone i problemi che potrebbe porsi un altro nel ruolo che ricopre, rimane quello che è se stesso. Lo raccontava prima di essere presidente e lo fa adesso, con il risultato a volte di piacere molto, altre volte di essere criticato. Però oggi, ieri, l'ho visto perché ero lì, Berlusca era in Vaticano alla beatificazione di Giovanni Paolo. Ma ti immagini, c'è un minimo di imbarazzo, c'era stato anche in tutte le massime gerarchie ecclesiastiche di avere lì un uomo divorziato che comunque ha divorziato, aver... ce ne sono parecchi in Italia, insomma. E anche lì in Vaticano quel giorno ce n'erano tantissimi di politici divorziati o separati. Renzo, sa Don Giussani cosa diceva? Me che l'hanno diceva riferito proprio dei cellini doc che hanno anche lavorato con me. Diceva: peccato del pantalone, pronta soluzione. Ah, ecco, peccato del pantalone, pronta soluzione. Secondo me le gerarchie ecclesiastiche nel fronte di Berlusconi si ispirano a questo, questa massima di Don Giussani. Allora, Berlusconi ha detto oggi che è umiliante essere in tribunale. Sentiamo. È certamente qualcosa che non va nella direzione giusta per una democrazia di avere il proprio responsabile di governo sottoposto a un'umiliazione di passare delle ore in tribunale mentre ci sono tutti questi accadimenti internazionali importanti, mentre c'è una situazione importante che richiederebbe la sua presenza nel paese su fatti che sono pure invenzioni. Umiliante, umiliante. E fuori dal tribunale due voci contrapposte che sono abbastanza curiose. Una eccezionale, caro Parenzo, ed è una sorta di vecchiettina che è la Annarella, possiamo dire la Annarella di destra, la nostra mitica meraviglia. Annarella, quella che è fuori dal Parlamento. Certo. Senti qui, splendido. Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio. Adesso, pensare che queste persone siano state reclutate da Mantovani si farebbe un torto allo stesso Mantovani, insomma, no? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bella questa idea di Silvio Uccello. Sì. Questa è bella. Vabbè, adesso se tu sempre Cassero il solito, solitario. Sempre il solito. La campagna cantando. Però vai, c'è, beh, guarda la differenza, c'è un com'era questa? Passerottino. Passero solitario, no? La nota. Certo. La stava recitando, com'è? Sì, beh, din sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno. Ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sì che mirarla intenerisce il cuore. Odi greggi berar, l'uggire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. La so tutta, ma annoia un po' la... Ma cosa pazzia, io mi devo inchinare, da Parenzo, beh, ma devo fare l'attore, qualcosa a devo memoria, sapere. A memoria, non c'è un testo, inchinati in metropolitana, mettiti giù, inchinati in metropolitana. Gli ascoltatori non lo sanno, questa vostra abitudine contraccambiata di prosternarsi in pubblico quando ci si vede. Davanti a Gabriele Albertini, una cosa pazzesca. A questo punto ho ricambiato, quella volta in aereo però la hostess era rimasta allibita. Un po' allibita perché... Pensava a qualche islamico terrorista. La bella hostess. Cruciani Parenzo, anche voi, ci siamo, prima noi ci siamo inchinati, poi anche il sindaco Albertini si è inchinato davanti a noi. Pensava ormai a un rituale. Attentato islamico. Allora, Scilipoti, spero in un futuro con tanti Scilipoti. Questo è per te. Spero in un futuro con tanti Scilipoti. Parenzo. Spero di poter contribuire per una piccolissima parte a dare credibilità alla politica, per far sì che gli italiani possano credere che la politica è qualcosa di bello e di nobile. Dottoressa, ma mi lasci concludere, ce li voti, ce ne sono uno. Speriamo in un prossimo futuro, in un prossimo Parlamento, a posto di avere soltanto uno scilipoti all'interno, tanti scilipoti, anche se non dovessero avere lo stesso cognome, ma personaggi o politici che parlano lo stesso linguaggio di scilipoti oggi. Scilipoti come la pecora Dolly, insomma, tentativi di clonazione di scilipoti. Tanti scilipoti in Parlamento, caro Parenzo, un Parlamento vergogna, pieno di scilipoti. Non ha vergogna, non ha vergogna. Allora, in conclusione, Bossi, non si raggiunge questo accordo, senatore, si raggiunge questo accordo sulla Libia? Ma sì, col Silvio andiamo sempre d'accordo, prima o poi, troviamo la quadra, la troviamo. Grazie a Gabriele Albertini. Grazie a voi. Teatro Litta, Milano, tra poco. Arrivederci. Forza. Siamo qui, la Zanzara, 19.35, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Davide Parenzo in collegamento dalla metropolitana di Milano, in trasferimento all'interno della città. Ascoltatori, tra pochissimo. Marco da Como, esatto. Buonasera. Marco. Buonasera, buonasera. Dica. Senta, io cambiando totalmente il discorso, non sono d'accordo con Matteo Renzi, perché mi aspetto sempre che un papabile futuro candidato del centro-sinistra faccia ogni tanto un discorso di sinistra, non dico comunista, ma almeno di sinistra. E rispetto. Bisogna vedere che cosa si intende per sinistra, caro Marco. Ma comunque c'è un'idea di rispetto del mondo del lavoro, di rispetto di una categoria che mi sembra... Scusi un attimo, Marco, scusi, se uno dice che i negozi devono restare aperti e dunque restando aperti si dà lavoro e si offrono opportunità, perché questa cosa non dovrebbe essere una cosa di sinistra e deve essere invece intesa come una cosa contro la sinistra, contro i sindacati e certamente contro un certo modo di intendere il sindacato? Ma non vedo perché non dovrebbe essere una cosa di sinistra. Poi dopo Renzi, come sindaco della mia stessa città che è Como, ha detto una cosa, questi sindacati che sono sempre contro, però hanno causato in un certo senso sia Renzi che il sindaco della mia città questa reazione da parte dei sindacati in un giorno in cui io chiedo semplicemente si rispetti il mondo del lavoro. Capisco che è ottuso anche il discorso perché non ha città. No, ma cosa come significa Roma, rispettare il mondo del lavoro? Bisogna intendersi sulle parole, Marco. Non bisogna utilizzare parole, per carità, detto con tutto il rispetto, generiche, vaghe e che poi non significano nulla. Io mi trovo poi in difficoltà perché secondo me bisognerebbe dire delle parole chiare, nel senso il mondo del lavoro va rispettato. Questo giorno deve essere preso come giorno in cui si ricorda che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e quindi di conseguenza onoriamo e festeggiamo il giorno del lavoro. Non dopo prendersela con i sindacati perché reagiscono alla presentazione. Secondo me poi li mette in confusione a me come lettore di sinistra. Guardi Marco, io ricordo una cosa, che anzi dico sempre una cosa. che il, un elettore moderato potrebbe scegliere un partito di sinistra quando questo partito di sinistra, il principale partito della sinistra italiana, romperà definitivamente tutti i suoi legami con la CGIL. Questa è la mia, questa è la mia idea. Scusi, ma il radioascoltatore non ha capito una cosa. Renzi ha detto di dare la possibilità ai negozi di rimanere non aperti. È che non c'è nessuna imposizione. Ma di che stiamo a parlare, amico mio? In corso, sta dicendo. No, no, io a parte l'imposizione, non lo so, mi aspetto, ma è una mia cosa no, personale. L'ascoltatore si aspetta da Renzi una parola di sinistra, però ripeto, ma bisogna... è di sinistra questo? Infatti anche, anche secondo me, in teoria, per quanto abbiano ancora un senso le parole sinistra, destra o quant'altro, diciamo, come dire, favorire l'apertura di negozi, dunque circolazione di denaro, guadagni in più, lavoro in più, che cosa c'è più certo. di sinistra di questo? Non riesco a capire cosa c'è più di sinistra. Però questa è la mia idea, sarà sbagliata, che ne so. Cioè... Io ho un'idea diversa di questa cosa qua. E poi posso fare una considerazione sulle parole di Sgarbi sempre di venerdì? Sì, come in merito no. Lascini. Sì. Io ritengo giusta la posizione di Sgarbi perché è la posizione della dirigenza del PDL. Ritengo ipocrita la posizione della Moratti che scarica Lascini, però si tiene come capolista Berlusconi e si tiene anche i voti e si tiene vabbè bravo, si tiene come bravo. Capolista Berlusconi mi sembra come dire un non senso, non è che la Moratti si tiene come capolista Berlusconi, diciamo che Berlusconi vuole essere capolista, resta capolista e non possiamo mettere in dubbio che anche la Moratti lo voglia, insomma prende però i voti. Il radioascoltatore sì, ecco, però... no, ma non c'entra no, ma non c'entra assolutamente nulla. Berlusconi ha fatto questo con i magistrati, contro i magistrati non si deve candidare. Ma cosa Parenzo c'entra? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma Berlusconi è 15 anni che usa quei toni, allora non si dovrebbe mai candidare secondo il tuo ragionamento. E allora la Moratti non si deve indignare. E ma... devi dirlo anche tu, se siamo no, coerenti con no, questo ragionamento. Sì, ma devi far funzionare anche ogni tanto le sinapsi. No, ma soprattutto una cosa che in politica si chiama, come dire, no? Tatticismo, cinismo, compromesso, chiamalo come ti pare. No, Enrico da Udine, Marco, grazie, Enrico. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire ancora venerdì sera a proposito delle polemiche circa i gay... associati a delle correnti politiche. In particolare io sono una persona che vota Lega, sono anche tesserato Udine. Sì, lei è tesserato Udine della Lega, sì. Venerdì scorso Stiffoni, il senatore veneto della Lega, uno dei dirigenti della Lega in Veneto, ha detto che nella Lega non ci sono omosessuali perché non è nel nostro DNA. Subito smentito da una serie di ascoltatori che hanno cominciato a chiamare, ce n'erano anche molti altri, un ascoltatore da Reggio Emilia, eccetera, eccetera. Lei ci chiama da Udine e dice di essere tesserato per la Lega e magari è omosessuale, no? No, no, assolutamente, sono super eterosessuale. Super eterosessuale, se esistono i super eterosessuali, non esagiriamo. Per cui, stia tranquillo che potremmo smentirla, stia tranquillo. Come potremmo smentirla? No, che sei... che c'hai là? Che prove hai? Il povero signore Enrico, non spaventare il povero signore Enrico. No, no, ma non chiamare e proclamarci super eterosessuali. Questa è invidia. Questa è invidia, non mi spavento. Beh, invidia adesso, amico mio, andiamo calmi. Cioè, invidia. Comunque lei si proclama super eterosessuale. Benissimo. Esatto. Vabbè, ecco, allora... A parte questo, io non sono d'accordo sull'associare i gay o... a determinate correnti politiche o pensieri politici. Io come uomo della Lega, anche se non attivista, dico un omosessuale, un gay, una lesbica di buon senso che aderisca ai programmi della Lega è ben accetta anche della Lega. Vabbè, ma questo mi pare scontato, Enrico. Cioè, esatto. Non c'è bisogno, lo dica al senatore Stiffoni. Esattamente. Ma per quanto riguarda il comportamento poi, relativamente ai gay o agli eterosessuali, è chiaro che palesi manifestazioni di petting in pubblico danno fastidio. Ma che vuol dire palesi manifestazioni di petting in pubblico, Enrico? Ma se lei vede un uomo e una donna che si baciano anche in maniera piuttosto come dire appassionata, si scandalizza? Ecco, no, assolutamente. E invece se sono due uomini sì? Se sono due uomini fa schifo. Tutto qua. Enrico, lei mi pare un tantinello, come dire, un tantinello omofobo, come dire, no? No, sarò un tantinello omofobo, ma siccome io li ho visti, non perché sono andato. E che ha fatto? Ha vomitato? Che ha fatto? No, sono uscito da quel posto perché ero, guardi, mi è successo negli Stati Uniti, in un hotel, di una paese sera, civile, peraltro. Cioè, c'era una festa, ho detto, vado a bermi qualcosa in questa festa. È capitato male. dopodiché ho capito, quando ho cominciato a vedere, perché sì, era un pochino buio, quando ho cominciato ad ambientarmi ho capito che si trattava di una festa gay. Ho visto due uomini in Bermuda, sì, calvi tra l'altro, vabbè, questa poca importanza. Come calvi? Calvi, ho capito, la cosa non rileva, insomma. Cosa c'è? Ballare un lento tra di loro, poi li ho visti baciarsi sulla bocca. Guardi, ho sgranato gli occhi, ho preso e me ne sono andato. È andato in bagno, perché... ha fatto una vomitatina e via. No, sono andato via a fare un giro. Guardi, le assicuro. Le ha fatto schifo, va bene, ho capito. Ma quelli erano, scusi un attimo, Enrico, mica erano in un parco pubblico, erano in una festa privata, chiusa. Erano pederasti. Erano pederasti, che vuol dire pederale? Lo dice, erano pederasti, come fosse, erano pederasti, come fosse una colpa. No, non è una colpa, ma certamente... A me non danno fastidio, però dà fastidio tutta questa esaltazione. Ma quale esaltazione? Si baciano come si baciano due eterosessuali? Abbia pazienza, Udine, Enrico. Le dico una cosa, a Udine ogni anno a fine estate c'è Friuli Doc, che è una festa che viene effettuata in città con delle bancarelle dove vengono distribuiti i prodotti tipici friulani, Doc, vino, formaggi, prosciutto di San Daniele. Il nostro beneamato sindaco ha avuto la brillante idea di tappezzare la città di cartelli prodotto tipico friulano con due gay che si baciano. E chiaramente questi cartelli sono stati imbrattati, perché insomma, se il sindaco per prendere dei voti ha necessità di fare queste cose, certamente non sono belli. Lo stesso sindaco di Udine voleva fare proselitismo nelle scuole tramite dei gay. Come proselitismo? Che vuol dire proselitismo? Aveva accettato che dei rappresentanti dei gay facessero delle conferenze all'interno di alcune scuole per spiegare ai ragazzi che essere gay non è un male. Mi pare difficile, Enrico, al massimo questo è civile, il dominio pubblico a Udine. Voleva chi è il sindaco di Udine, cosa avrebbe fatto? Non ho capito bene, mi scusi. No, il sindaco non avrebbe fatto nulla. Ha accettato, ha detto sì alla proposta di non so chi, non voglio fare nomi di enti errati. Cioè, è stata una proposta, non so se di Arcigay o di altri, non lo so di preciso, comunque lo so che c'è stata, per fare del proselitismo, ovvero delle riunioni. Ma proselitismo che vuol dire proselitismo? Di che? Mica la religione, ma che dice? Promozione dei gay, diciamo, usiamo altri termini. Voleva fare, ma non credo che sia, dove, nelle scuole? Ma l'ha fatto per evitare discriminazione, perché come lei sa, in molti posti ancora oggi, e la sua telefonata drammatica lo dimostra, essere omosessuali è un problema perché ti discriminano, e quindi avrà fatto questo è il punto, per evitare discriminazioni, certo, no? Quindi, certo, questo è secondo la sua idea, che io rispetto, però non condivido, perché io non criminalizzo gli omosessuali o i gay. Io ne ho incontrati in aereo come Stuart e allora? In Cristo, fastidissimi, per amor di Dio. Mi dà fastidio questa ostentazione, e che il fatto che molti eterosessuali per non apparire obsoleti oppure omofobi, continuano a manifestare come se questo gay fosse una cosa bellissima, accettata. Per l'amor di Dio, io li accetto, però le dico sinceramente, per fortuna io non ho figli gay, ne ho uno di 18, uno di 22. Eccoci qui, per fortuna non ho figli gay, ci siamo arrivati. Enrico, va bene, Enrico, resti lì. 800-24-0024, in collegamento non so da dove perché non me lo dicono mai, Carlo Giovanardi, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Uno dei massimi esperti in materia. Ma perché adesso Parenzo subito, uno dei massimi esperti in materia? Semplicemente ha le sue idee sull'omosessualità. È appassionato a queste tematiche. E non si nasconde, le esprime con tranquillità. Ma va benissimo, mi è molto simpatico. Cioè, non è che di queste materie. Non è che uno per forza la deve pensare come Franco Grillini nel mondo, no? Cioè, ci può essere anche qualcuno che la pensi in maniera diversa da Franco Grillini. Non per questo, non è che uno può essere discriminato per questo, al contrario. Adesso non mi fare difendere. Sono appassionato di questa materia. Posso dire che è appassionato. Diciamo che la materia lo interessa particolarmente. È un cultore della materia. Cultore della materia. Giovanni, lei si riconosce come cultore della materia gay? No, io sono uno che si è limitato a rispondere a una domanda, per questo ho ricevuto insulti pubblici. Ma quale? A cosa si riferisce? Beh, per esempio all'articolo di Merlo su Repubblica, Giovanni un cretino, è un energumeno, è un cavernicolo, è uno che non ragiona ma va a botte, è un vile, è un vigliacco, tutte cose dette e scritte, semplicemente per aver detto che io condivido quello che c'è scritto nella nostra Costituzione e che i nostri giudici costituzionali appena 3 mesi fa hanno ribadito con una sentenza della Corte. Sì, ma quello sull'IKEA, lei dice, sull'IKEA? Beh, io ho detto solo semplicemente questo. Solliche. Nel nostro ordinamento, finché qualcuno non pensa di cambiare la Costituzione, il matrimonio deve avvenire fra un uomo e una donna. Scusi, però uno potrebbe dire, vabbè, un articolo di Francesco Merlo sulla prima pagina di Repubblica, chi se ne importa, i, no? I contenuti che mi arrivano e gli insulti che arrivano, perché la cosa che non capisco bene, perché una volta che io dico e ribadisco che sono assolutamente solidale con chiunque riceve offese o insulti per il suo orientamento sessuale, che siamo in un paese dove ognuno giustamente vive liberamente la sua sessualità senza che nessuno ci faccia più assolutamente caso, perché nel governo, nel Parlamento, nell'impresa, nello spettacolo, nella moda, ovunque ci sono persone che si dichiarano apertamente gay e questo non gli ha impedito giustamente, se sono brave, di fare carriera. Non capisco perché si debba venire insultati, Sì. Se si tiene fermo che nel nostro ordinamento alcune questioni, tipo il matrimonio, devono essere riservate all'uomo e alla donna. No, però mi scusi, la questione era un'altra, Giovanardi. Il fatto è che lei abbia, come dire, non dico polemizzato, ma abbia detto... Non condiviso una pubblicità dell'IKEA. Uno potrebbe dire, vabbè, sì, una pubblicità dell'IKEA in cui si fa riferimento alla famiglia con due uomini che si prendono per mano. E adesso si ha... dopo un'altra catena collegata alla Lega delle Coppe ci ha messo due donne, sempre. E allora mi sono ho detto, e lo ribadisco, in effetti è vero, uno ci mette due uomini, uno ci mette due donne. La vera dimenticata, la vera discriminata in questo paese, ahimè, è la normalità di un uomo, una donna, i figli con tutti i problemi che c'hanno. Ma perché la vera dimenticata? Hanno fatto una pubblicità queste due aziende, una è Italy e l'altra è l'IKEA. Punto e basta, no? Appunto, dimenticata perché? Ma è lei che ha dato notorietà a queste cose? Dato notorietà. Abbiamo fatto una domanda e la domanda ha risposto, ha dato nessuna notorietà. Certo che uno può condividere o non condividere il fatto che famiglia venga indicata uomo, uomo, donna, donna. Io dico che sono persone che esercitano liberamente la loro sessualità, non è in termini costituzionali una famiglia e non può neanche sposarsi, è una formazione sociale, ce ne sono tante, questa è un'opinione, un punto di vista, torno però a ripetere, questo deve costare insulti? Ma chi la insulta? Non ho capito, allora, a parte l'articolo di Merlo, lei può... Decine di organizzazioni, perché se vogliamo dire le cose come stanno, io come stanno? Solidarietà dal PD. Sì. Esponenti del PD. Merlo. Esponenti della Lega, esponenti dell'UDC, esponenti del PDL, ho avuto insulti da movimenti gay militanti, che sono quei sempre gli stessi. Scusi, che significa insulti da movimenti gay militanti? Se basta vedere le agenzie, basta andare a vedere i nomi e i cognomi dei dirigenti di questi movimenti che mi insultano. Le dichiarazioni di movimenti, certo, no, pensavo che movimenti di gay militanti, che ne so, le brigate gay la insultassero, che ne so, che sempre la solita compagnia di giro. Sono quelle a cui ho detto un milione di volte che se loro continuano a fare manifestazioni in cui insultano il Papa, insultano la Chiesa, dileggiano i valori in cui una parte della popolazione italiana si ritrova, fanno fare un grande passo avanti al loro movimento, perché se non rispettano i valori degli altri, poi rischiano che ci siano persone che non rispettano loro. Ma scusi, ma non è molto più ipocrita? No, non è ministro Giovanardi, è stato segretario. È stato ministro comunque, all'onorevole Giovanardi, che tra l'altro è una persona simpatica e anche brava, ma non le sembra più ipocrita e assurdo vedere in Vaticano per la beatificazione di Giovanni Paolo uno sforzo di politici divorziati, separati, che dichiarano di avere tante amiche e un'attività sessuale, come dire, piuttosto vasta e intensa? Questa è una grande ipocrisia. Tu sei ossessionato da Berlusconi, devi sempre vedere Berlusconi in tutte le cose. Ma nulla, lo adoro Berlusconi, allora, mi piace, faccio un esempio, succede a qualcuno di andare a letto con la moglie del suo migliore amico, a chi o succede? Di commettere adulterio, a chi succede? Io non ho mai visto che qualcuno va di giro vantandosi dicendo che è una bella cosa andare a rubare la moglie dell'altro o commettere adulterio, perché il peccato, la Chiesa l'ha sempre detto, è una manchevolezza e la Chiesa ha sempre condannato il peccato in quanto tale, ma è sempre stata molto comprensiva delle debolezze umane. Quindi la Chiesa, se uno è sposato, è risposato, è divorziato e ci dà a beatificare un Papa, accoglie. Se ci fosse stato Dolce Gabbana, sarebbero stati lì Dolce Gabbana. Se ci fosse stato ancora Pecoraro Scanio, che ha detto solo dichiaratamente omosessuale, non l'ha detto. Come ministro, se ci voleva andare alla beatificazione, invitato, e sicuramente nessun papa, nessun cardinale avrebbe avuto niente da dire per la presenza di Pecoraro Scanio. Quindi non vedo dov'è lo scandalo. Ma sì, là c'è anche persone, Fini è divorziato, bene, era là. L'ipocrisia di fondo, che c'è un'ipocrisia di fondo nella difesa di valori cattolici. Vabbè, abbiamo capito, qual è il concetto. Però è una questione. Carità, secondo me è una questione. Giovanardi ha spiegato dal suo punto di vista che invece la Chiesa accoglie anche quelli che sono in contrasto con le sue. No, ma ci sono stati papi che sono stati in contrasto con la dottrina che predicavano e che ne hanno fatto di tutti i colori. Cioè, per esempio, chi? Beh, cominciare dai Borgia. Ah, nel passato, del papato, nei tempi bui, nel Rinascimento, in cui i papi, e dal punto di vista della violenza, e dal punto di vista del comportamento sessuale, sicuramente eterodosso, ne ha fatti di tutti i colori. E questo ha messo in discussione la verità del Vangelo per chi crede in Cristo e chi crede in Dio. Senta Giovanardi, se lei vede due omosessuali che si baciano, perché abbiamo fatto la stessa domanda a qualche deputato della Lega di recente che si è un po' scandalizzato, sì. che effetto le fa? La risposta che ho sempre dato: se io vedo un nudista o una nudista in Sardegna, su una spiaggia deserta, non mi fa nessun effetto, nel senso, se è una bella donna, cioè, ammiro una bella donna. Se vedo un nudista a Riccione che gira nudo in mezzo agli ombrelloni dove sono le mamme con i bambini, con le famiglie, questa cosa mi dà immensamente fastidio. No, scusi, è un po' diverso, non è diverso, perché le assicuro che il nudista c'hanno il coso di fuori, il pubblico fra due uomini è una cosa che può infastidire, è così, può infastidire. Allora i due che si baciano, cioè, a lei infastidisce? Sì, a me dà il fastidio e il non fastidio non è una questione razionale. Ma è due eterosessuali che si baciano? Allora, poiché io... Ma le dà fastidio anche un uomo e una donna che si baciano? Che il fatto che un uomo e una donna si bacino rientra in un concetto naturale che dura da milioni di anni. Naturale secondo lei? Serve a perpetuare la specie, serve il desiderio sessuale a mettere al mondo dei figli, eccetera, eccetera. Questo lo considero rientrante nella normalità. Un episodio nella sua normalità, si è ostentato di due uomini in pubblico, in un luogo pubblico, in una piazza davanti a una chiesa, sì, un luogo che si baciano, secondo me molta gente è infastidita, e se non lo dice è infastidita lo stesso. E dunque, che allora, bisognerebbe fare? Il mio consiglio è semplicemente che questo tipo di effusioni, così non nell'atteggiamento affettuoso, ci mancherebbe altro, però baci. Vuole darsi un lungo bacio in bocca, se lo dà a casa sua, evita di andare a farlo davanti a persone terze che magari non gradiscono questo atteggiamento. Ho capito, dunque, però bisogna distinguere, Giovanardi. È una questione di bon ton. Una questione di bon ton. È una questione di Afghanistan, di talebanian. Comunque, perché i talebani sono quelli che vogliono giudicare le reazioni degli altri. Sì, e infatti i talebani tagliavano le mani agli omosessuali. Perché, è come il linguaggio. Io ho sempre pensato che in caserma, c'è un linguaggio da caserma, sì. I generali, i colonnelli, quando i generali e i colonnelli andavano a casa loro, oppure vanno a parlare in un convento di suore, oppure sono all'interno, il torpiloquio, che in caserma ci sta, in un ambiente scolastico, educativo, non ci sta. Scusi, secondo lei dunque il bacio tra omosessuali è come in pubblico è come un torpiloquio? Ho detto che il torpiloquio ci sta, nel senso che in caserma... Cioè è come un torpiloquio in pubblico, è come fare un torpiloquio in pubblico. Uomini che fanno l'amore fra di loro, sarà il nostro un retaggio del passato. In tre quarti dei paesi del mondo, io sono assolutamente contrario, costa la prigione o la condanna a morte, nella maggioranza dei paesi del mondo. Perché lei è contrario? Non è che la natura, la storia, la tradizione, quello che c'è scritto nel Levitico, quello che c'è scritto nella lettera di San Paolo ai Romani, quello che c'è scritto nel Vangelo lo si possa cancellare. Allora, in tanti paesi del mondo, compresa Cuba, comunista li mette in galera. In Italia, dove siamo liberissimi, può anche capitare che due uomini che si baciano ostentatamente si baciano, vengono visti da parte di chi è lì presente con un senso di fastidio. Ma lei li punirebbe? Li punirebbe, darebbe delle multe o cose di questo tipo? No, non do nessuna multa, però ribadisco per l'ennesima volta che quando a Roma, 3 anni fa, due signori, di cui uno era inginocchiato e l'altro era con i pantaloni giù, sono stati pescati da una pattuglia di carabinieri in pubblico e i carabinieri li hanno fermati. Sì. E c'è stata una levata di scudi della Turca e di altri tre. Ho fatto presente che se in quella stessa situazione ci fossero stati un uomo è una donna. Ma certo. Beh, ma quello è un altro discorso. Ma quello è un altro discorso. Appio sceni in luogo pubblico, quello reato, appio sceni in luogo pubblico si chiama. Coi carabinieri dicendo che era uno scandalo che li avessero fermati. No, ma quello è un altro discorso. Riprendiamo tra poco dopo la ola pubblicità. Riprendiamo tra poco. 800 24 00 24. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Siamo qui alla Zanzara alle 20:01, 800 24 00 24 con David Parenzo che è in giro per Milano. Dove sei arrivato, Parenzo? David, mi senti oppure no? Non mi sente. E in collegamento con noi Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla famiglia, alla droga e ai servizi sociali. Dove sei? Faccio un altro esempio, forse ci capiamo. Mi faccio un altro esempio, sì. Allora io ho fatto della mia vita il figlio prima, poi il padre, adesso faccio anche il nonno. Sì. Allora, nessuno mette in dubbio che i genitori o anche i nonni abbiano un'attività sessuale fra di loro, no? Però è sicuro che davanti ai figli o davanti ai nipoti è bene che i genitori o i nonni tengano un atteggiamento sobrio, perché un figlio certe effusioni, magari anche un po' spinte, dai genitori davanti ai figli o davanti ai nipoti non li accetta. Ha un senso di rigetto, di fastidio, e i genitori devono stare attenti, non dico di atteggiamenti affettuosi. Sì, ma stiamo parlando di altre cose qua, Giovanni, non stiamo parlando di coppie eterosessuali, stiamo parlando di... Perché nasce, dice, ma scusi, ma un papà e una madre, ma perché non possono avere rapporti davanti ai figli? No, ma stiamo parlando di altre cose. Lei ha detto che se vede due omosessuali, sì, donne o uomini, baciarsi in piazza... Sì. Le dà fastidio, dovrebbero farlo in privato. No, sono due cose diverse, il padre e la madre. Sto dicendo che se un figlio, il padre e una madre, che si baciano ostentatamente o appassionatamente, ha un senso di disagio che è uguale al senso di disagio che ho io quando vedo, o se vedessi, due uomini. Manca il senso di disagio che un uomo e una donna che in un supermercato si baciassero in maniera profonda, si accarezzassero davanti magari a delle persone, dei bambini, delle famiglie che passano. E quei due signori fidanzati, andate a fare un po' di là, un po' più in là, perché non è detto che le vostre effusioni sono gradite a tutti. Perché siamo in pubblico, perché ci sono delle famiglie, perché ci sono degli anziani, perché ci sono delle persone che possono essere in qualche modo disturbate dalla vostra... Però non nascondiamoci dietro, non stiamo parlando delle effusioni di due persone, di due eterosessuali, cioè, stiamo parlando di una cosa ben precisa, cioè stiamo parlando del fatto che, secondo lei, il bacio tra due omosessuali va limitato nel privato, giusto? Sì, ho detto che due... uomini che si baciano in un luogo pubblico, esatto, danno un senso di disagio. Benissimo, dunque dovrebbero farlo in privato. Lo danno a milioni di persone. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene questo qua? Non ci sono statistiche a riguardo. Vi dico io che il senso di disagio esiste ed è connaturato a qualcosa che abbiamo nel nostro DNA da milioni di anni, se vuole da migliaia di anni, tale per cui la sessualità è collegata a un meccanismo uomo-donna, a una, fra virgolette, normalità, che è quella che consente poi alla razza umana... Dunque, un bacio tra due omosessuali non è una cosa normale? Non vuol dire, e torno a dirlo, che chi vuole esercitare la sua sessualità non lo possa fare. Quello che ho detto milione di volte agli etero e agli omosessuali, ai nudisti e non nudisti, di farlo soltanto in modo da non offendere la sensibilità. Il punto di vista. Ma una cosa è, i nudisti vanno nel ghetto, i nudisti vanno in un ghetto, lei vorrebbe confinare gli omosessuali in un ghetto dove si possono baciare, cioè nel privato, è una follia. Anche gli eterosessuali li voglio mettere in un ghetto, mi scusi, anzi, mi sembra che questa sia una società nella quale... Ma i nudisti sì, i nudisti sì. Addirittura si vuole portare in tribunale e processare un presidente del Consiglio per i suoi orientamenti sessuali. Vabbè, quello è un altro discorso. Vabbè, è lo stesso discorso, perché mentre mi vengono fatti a me questi discorsi, il mio presidente del Consiglio, di cui sono sottosegretario, lo si va a intercettare per centinaia di ore. Perché? No, però adesso, Giovanni, stiamo parlando di un'altra cosa. Lei ha detto, parliamo della stessa cosa, perché io ho parlato di disagio e mi sono preso insulti di tutti i tipi. Quelli lo trascinano in tribunale. Vabbè, ma quello è un discorso che riguarda i magistrati di Milano, le indagini, eccetera. Di cui stiamo parlando. Però scusi, Giovanardi, lei ha detto una cosa. Faccio l'esempio dei nudisti, giusto? Lei l'ha detto. Faccio l'esempio dei nudisti. Allora, un nudista in una spiaggia deserta, in una spiaggia... Ho capito, ma non può paragonare un nudista con un omosessuale. Sono due situazioni diverse. Un nudista col batacchio a riccione sotto gli ombrelloni che gira fra le famiglie, non solo mi dà fastidio, lo piglio con i vigili urbani e lo porto fuori dalla e dunque lei farebbe la stessa cosa con un omosessuale che si bacia in una piazza? Sì, farebbe intervenire i vigili urbani? Si mettono due uomini a baciarsi in maniera ostentata lì, ma gli dico, ragazzi, ma non direi anche all'uomo e alla donna che si mettono lì sulla spiaggia davanti alle famiglie, sì, arrivano lì e incominciano. Intervengano i vigili urbani, ho capito. Ragazzi, non fatelo, andate a fare un po' più in là, dove non ci sono famiglie, dove non ci sono anziani, dove non ci sono bambini. Ho capito. Senta, scusi, però la soglia... No, c'è da capire una cosa, state zitti un attimo, per favore, state zitti un attimo. C'è da capire una cosa, che è la soglia. Cioè, per esempio, mano nella mano si può? Due omosessuali, mano nella mano. No, io di mano nella mano ne vedo girare e nessuno, almeno personalmente, proprio non mi viene nessun motivo di discutere il loro tipo di atteggiamento. Mano nella mano va bene, mano nella mano va bene. Il bacio sulle labbra? Ho fatto all'IKEA, non va bene, andare all'IKEA come hanno fatto... O settatamente andare a fare la manifestazione degli uomini che si baciano per provocare non si sa che cosa. Sì. Perché, il mio ragionamento è stato. Vabbè, si becchi questa provocazione, Giovanni, non c'è niente di strano. È una provocazione contro di lei. Io posso non condividerla. No, scusi, certo. Perché, è più che mi vogliono, mi posso dire che le cose mi piacciono. I gay pride, vabbè, non piacciono. Vabbè, l'occupazione non mi piace. L'offesa alla religione, al Papa, non mi piace. Quello che scrivono. E quello che dicono negli slogan può non piacermi. Scusi un attimo, Giovanardi, io non capisco qual è la soglia, però. Ci abbiamo detto, mano nella mano va bene, il bacio sulle labbra tra due omosessuali. Ho di persone che ho conosciuto nella vita, omosessuali, sì, che ho trovato nel lavoro, che ho trovato nelle amicizie, che sono sempre comportati in maniera tale per cui, come uno non va in giro dicendo sono uno che fa adulterio, sono uno che va a letto con le donne degli altri, sono uno che ha rapporti prematrimoniali. La Chiesa vieta i rapporti prematrimoniali e che si mette a polemizzare con la Chiesa perché condanna l'adulterio, perché condanna. Ma non è la stessa cosa. Persone omosessuali che vivevano la loro vita, di cui non andavano a dire in giro io esisto perché sono omosessuale, io esisto perché ho capito, ma se uno, scusi un attimo, Giovanardi, facciamo una situazione, come dire, tipo, no? Ci sono due omosessuali, due donne, due uomini che stanno in giro per strada, per Roma, anche magari in un orario di punta, stanno facendo una passeggiata a fare shopping. A un certo punto, come dire, a queste due persone va di baciarsi. Cosa dovrebbero fare secondo lei? Ma guardi, sì, mentre sono lì. Facciamo una cena. Siamo una cena dove ci sono 20 persone in un ristorante. No, mi risponda. Sono in giro per strada. Pubblico, sto parlando di roba pubblica. Se è un gesto d'affetto, nessun problema. Se è un gesto ostentato, siano uomo o donna. Ma ostentato uomo, che io sto facendo la cosa del. Scusi. Ma io sto mettendo pari. Ho detto che. No, ma noi stiamo parlando degli omosessuali, non di uomo e donna. No, più di metterli pari, che devo dire. No. Che mi aspetto da uomo uomo, da donna donna e da uomo. In pubblico lo stesso atteggiamento di sobrietà. Vabbè. Nel tavolo vicino al ristorante, una coppia. Noi stavamo parlando di omosessuali comunque. A diffusioni lì, le assicuro che a me ho tanti clienti. Quella roba può dare fastidio. Se lo fa un uomo però... uomo, per le ragioni detto prima, magari mi danno ancora più fastidio. Vabbè, comunque lei all'inizio. Lei però ha detto un'altra cosa prima. Sì. Ha detto che le dà fastidio anche chi ostenta di avere tante donne. Allora, io conosco un presidente del Consiglio, adesso forse dimentico, che però in più occasioni, se non mi ricordo come si chiama... No, recentemente, tra l'altro, ha detto anche che pare abbia detto, ma è la cosa è confermata, che il vero maniaco sessuale è il monogamo. Ecco, conosco qualcuno che l'ha detto, diciamo. Come? Io non ho mai detto una cosa del genere. Berlusconi l'ha detto. Un presidente del Consiglio italiano, attualmente in carica. Ha fatto delle battute, ogni tanto, simpatico o meno simpatiche che sia, ama scherzare... Ma Berlusconi è il classico esempio di una persona che nelle sue aziende ha valorizzato al massimo persone che avevano orientamenti omosessuali, sono direttori. Ma chi per esempio? Chi per esempio? Per esempio Signorini di chi? Non è che approfondisca, ma è palese e notoriamente un omosessuale, è direttore di un giornale importante. Sì. Ma mi dicono anche lei le more, se è omosessuale non lo so, Sì, forse bisex, forse bisex. Orientamenti e tendenze di quel tipo, ma non mi sembra Dolce Gabbana lo sono. Pecoraro Scagno non è mica stato valorizzato da Berlusconi. Pecoraro Scagno non faccio nomi di altri politici importanti del passato perché sono arrivati a fare. Ma in Parlamento oggi, scusi Giovanardi, la loro capacità. In Parlamento oggi, tentando il loro orientamento. Però adesso la buttiamo un po' sullo scherzo, Giovanardi. In Parlamento oggi, in realtà, di omosessuale dichiarato ce n'è solo una, l'onorevole Concia. È un po' poco forse per la media che c'è di solito nelle organizzazioni sociali. Ma scusi, perché? torno a dire la cosa che ho detto prima, per diventare ministri, sottosegretari, imprenditori, c'è bisogno di dire alto e forte che la ragione sociale per la cui uno fa politica è il suo orientamento sessuale. No, quella no, quella no. Allora dov'è il problema? No, ma è meglio dichiararlo, secondo i senatori etero, omo, lesbiche. Secondo lei è meglio dichiararlo oppure no? Poligami, ci sono anche quelli poligami. E chi c'è di poligamo? Contemporaneamente ritengono che siano affari loro e non affari sui quali devono costruire una loro. Senta, ma il poligamo, il principale poligamo chi è? È lui, no? Uno dei principali? Diciamo, quel poligamo per eccellenza chi è? Allora, io più che poligamo lo immagino uno a cui piace la compagnia delle donne. Se dovessi poi andare a dire che al di là dell'apparenza c'è anche della sostanza, torna a quello che ho detto prima, saranno affari suoi. Va bene, abbiamo la pubblicità, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani. Eccoci qua, 20:14, questa è la Zanzara, caro Parenzo, nel giorno di Bin Laden, nel giorno di Bin Laden. Ho un ospite d'eccezione per te, se vuoi, qui al mio fianco, che non puoi immaginare chi è, che sarà ospite della mia trasmissione questa sera. Ma come no, il grande presidente Zamparini. No, non è Zamparini, è Don Antonio Mazzi, che è qui al mio fianco. Ma pensa a te che fine che faccio stasera. Don Antonio, come sta? Come sta? Come sto? Sto bene, ma sono in casa dei milanisti qua a Cazzarola e quindi sto male, capito? E che vuole fare? Insomma, è così. Un prete che dice Cazzarola. Sì, Cazzarola, perché quando lo fanno i milanisti sono le parolacce, devo dire. Ma come in casa di milanisti? Ci saranno pure qualche interviste? C'è Beccalossi? Non lo so, qui sono brutte facce, tutti i milanisti. Sì, ma c'è Beccalossi, Don Antonio? C'è Beccalossi? Dove è Beccalossi? Qui. Adesso arriva. Dai, okay. Come sta? Tutto bene? Sono in cattiva compagnia, ma sto bene. Che sta facendo? Come in cattiva compagnia? C'è Parenzo lì. Senta, le posso chiedere una cosa? Se davanti a lei ci sono due omosessuali che si baciano, che effetto le fa? Mi volto da un'altra parte, tutto finito lì. Basta, si volta dall'altra parte e chi se ne frega. C'è tutto il resto del mondo, gli amici. Ma le dà fastidio? Le dà un po' fastidio? Fastidio, insomma. Sì, non è una bella scena, ecco tutto lì. Non è una bella scena, in pubblico, in pubblico. Basta, tutto lì. E vedere Berlusconi in Vaticano è ancora peggio. Berlusconi in Vaticano è ancora peggio, in che senso? Ancora peggio, basta, appunto. Come? Vabbè, adesso si spieghi. No, ho detto punto. Ma non ce la può lasciare là la frase, Don Antonio? No, ho detto punto, anzi punto esclamativo, ancora peggio, ciao. Ciao, ciao. Giovanardi, che diceva lei? C'era il pregiudizio antimilanista qua che veniva fuori. Lei è di che tifoso, Giovanardi? No, io ho abbandonato lì, ero interista l'anno scorso, sono milanista quest'anno. Beh, scusi, ma Giovanni, lei è un paraguru, abbia pazienza. No, opportunista generico, prego. Grande, Giovanardi. Traffico, torniamo tra un secondo, 800-24-0024. No, Don Mazzi le dava ragione sui gay, Giovanardi. Qual è lo scoop? Scusa, dov'è Parenzo? Dov'è lo scoop? Hai avuto in diretta Don Antonio Mazzi, uno scoop pazzesco. Non esagerare. Ha detto una cosa però su Berlusconi, ancora peggio. Cioè, vedere la vista di Berlusconi in Vaticano è una cosa terrificante, almeno così ho capito. Così, ancora peggio, punto esclamativo. Ancora peggio di cosa poi? Ancora peggio di che? Di vedere due gay che si baciano. Esatto. Una cosa tremenda, cioè una cosa anti-berlusconiana al massimo, di Don Antonio Mazzi. Io non la vedrei così. Buttare sempre tutto la palla fuori dal campo, perché ragioniamo sulle cose, ragioniamo serenamente e pacatamente, come dice Fini. Serenamente e pacatamente. Non la sai fare bene, Fini, fai meglio Cacciari. Serenamente. Professor Cacciari? Professor Cacciari? Dove sta? Come sto? Se uno mi telefona, come vuole che stia? Devo studiare, leggere, sempre. Chi parla? Cruciani e Cruciani. È la Zanzara. No, cognome bruttissimo. Cruciani, veramente brutto. Di Giovanardi che ne pensa, professor Cacciari? Ma perché mi fate parlare di Giovanardi? Io devo parlare di Feuerbach, di Kant, Hegel. Giovanardi, cosa vuol dire? Nel dibattito politico c'è l'onorevole Giovanardi che parla dei gay, della droga, della famiglia. Ma i problemi del paese sono i gay e la ma la Zanzara è veramente fissata con questi temi e Giovanardi che commenta i gay e i gay che commentano Giovanardi. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di che cosa? Ho capito, non è che ci possiamo occupare di Feuerbach e di Hegel, professor Cacciari. Telefonate per sapere che cosa penso io di Giovanardi che ha dichiarato sull'Ikea. Ma si rende conto? Ma cos'è? Che roba è? Io devo commentare una cosa che ha detto Giovanardi sui gay e sull'Ikea e l'Ikea che ha detto su Giovanardi. Ma le pare normale? Traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qui, credo che si sia chiuso il collegamento con il professor Cacciari, se non sbaglio, non so se c'è ancora una linea telefonica che... Professor Cacciari? Pronto. Ma lei è ancora non collegato? So, avevo detto... Ma che espediente è quello di dire non so, aspetti, manda il traffico, la borsa, rimango come un cretino ad attendere e poi dici non so se c'è ancora, ma che espediente narrativo è? No, ma non è questione di espediente narrativo, è che pensavo si fosse chiuso il collegamento, comunque. Si chiude così, secondo lei, la tecnologia si chiude così, perché uno come dire, schiocca due dita e si chiude il collegamento, si chiude vuol dire che si preme stop, no, sul telefono, si abbassa la cornetta. Va bene, d'accordo, d'accordo. Va bene, allora ringrazio professor Cacciari, buona serata. Telefonato per sentire cosa? No, ma lei non vuole dire la sua su Giovanardi, ha detto che abbiamo sbagliato a chiamarla, pazienza. Ma come si fa a chiedermi dei commenti? Ma perché lei? Ma è un decorticato lei, decorticato proprio, ma ti rendi conto? Va bene, grazie professor Cacciari, 800 24 00 24, siamo sempre di collegamento, credo sia in viaggio, con Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e voglio chiedere a Giovanardi, dopo queste parole da parte del professor Cacciari, una cosa che riguarda invece l'iscrizione. Nei giorni scorsi alcuni deputati della Lega hanno detto che da loro non ci sono omosessuali iscritti. Poi ci sono arrivate tantissime telefonate da parte di omosessuali leghisti dicendo no, non è vero, eccetera. Se qualcuno si presentasse al suo movimento, un gay, e si volesse iscrivere, lei cosa farebbe? Scusi, ma chi è senza omosessuale scaghi la prima pietra. Chi è? Chi è senza omosessuale, lei dice. Ma, no? Ma ci mancherebbe altro, magari che... La Democrazia Cristiana da cui io provengo, gli omosessuali ce ne erano tanti. Per esempio, anche dirigenti, chi era, per esempio? Prima le ho parlato di presidente del Consiglio, le ho parlato di ministri che chiaramente avevano quell'orientamento, ma non hanno mai reso pubblico. Ma se ne conosce uno solo, no? Se ne conosce... Guarda, non faccio nomi perché sono anche viventi, quindi ma. Come vivente? Ah, uno è vivente, lo conoscono tutti. Uno che... Tutti lo sanno. Quindi, se qualcuno dice una cosa del nega l'evidenza, perché non c'è ambiente di lavoro sociale nella chiesa, ovunque, dove Bacebozzo per esempio lo diceva molto tranquillamente. Cosa? Don Bacebozzo che diceva? Lo sosteneva molto apertamente che lui aveva pulsioni e orientamenti di quel tipo, anche se essendo prete li controllava e non esercitava. Tu te la ricordi questa cosa, Parenzo? Te la ricordi questa cosa di Don? Sì, come no, come no. Vabbè, comunque in ogni caso. Mi ricordo che fu anche sospeso a Divinis, ma quello forse perché fu deputato dei socialisti. Sì, quello perché fu deputato al Parlamento Europeo, sì, per quello. Curioso, però no, sospensione a Divinis perché era deputato dei socialisti e non perché aveva delle, come dire, dichiarò questi. Comunque, non so perché nell'intervallo, prima, durante il traffico, sì, mi sono ricordato di quello che ci ha detto Albertini, che ci ha raccontato questa storiella meravigliosa di Berlusconi e Agnelli che hanno avuto la stessa donna in un momento diverso. Sì. Ci hanno scoperto a un certo punto durante un loro incontro di aver avuto una donna in comune in periodi diversi della loro vita, una confessione che ha fatto Berlusconi ad Albertini. Insomma, il commento di Albertini fu di un certo tipo, né? Dopo lo risentiremo. Il commento di Agnelli, il commento di Agnelli fu divertente. La patonza deve girare. Il mio commento è che se la leggenda metropolitana che riguarda l'uno e l'altro fosse effettivamente fondata, questa probabilità ci sarebbe con più di una signora. Lei addirittura aggrava, insomma. Sempre leggende metropolitane, però, Giovanardi, sempre come il Bunga Bunga, una leggenda metropolitana, no, Giovanardi? Sì, il Bunga Bunga è la barzelletta con cui Berlusconi ci ha intrattenuto un milione di volte, che riguardava Bondi e Cicchitto. Cioè? Bunga Bunga. Cioè, scusi, com'è stata? Era la battuta di queste che in Africa vengono prese in una tribù che gli spazia. Ah, sì. Uno sceglie di essere il Bunga Bunga piuttosto che essere ucciso, l'altro dice no, invece io voglio essere ucciso, dice allora fategli prima il Bunga Bunga. Sì. Però voglio dire, lei è di quella scuola che dice che le scene di Berlusconi erano scene sobrie. No, preoccupato, io sì. Vabbè, penso lei sì. Una grandissima parte delle altre fossero sobrie, quello che avveniva nel dopo cena sono affari suoi. Ah. Senta, ma quando Berlusconi dice che il vero maniaco sessuale però è il monogamo, lì lascia intendere che in realtà, insomma, no, la sua attività sessuale sia di un certo tipo, o sbaglio? Cioè, monogamo nel senso monotipo, che si rivolge alle donne. No, lui dice il vero maniaco sessuale è quello che si limita a stare solo con una donna. Cioè che... Guarda, io gli ho riportato la famosa battuta di Enzo Ferrari, che il Drake di Modena, che ha le lamentele della moglie, perché era uno insomma abbastanza birichino, rispose tu che sposando te ho tradito tutte le altre donne del mondo, scegliendo te. Ma lei com'è? Lei com'è tendenzialmente? Tendenzialmente io sono sposato, ho 3 figli. Eterosessuali di questi tre figli? Sono tendenzialmente sposato. Eterosessuali questi tre figli, sì. Tendenzialmente eterosessuale. Sì. Tendenzialmente eterosessuale. Però, dire, sarebbe, sarebbe un problema per lei? Alla domanda che se un mio figlio fosse omosessuale, gli vorrei bene esattamente come gli altri figli. Sì. Io consiglierei però, se avesse questo orientamento, sì, di gestirlo con discrezione e diventare una macchietta. E sviluppare la sua sessualità, se una donna con un'altra donna, con un uomo con un altro uomo, sì, in maniera discreta, in maniera tale di non fare di questa sua diversità un marchio. Beh, insomma, questo un consiglio impegnativo ci cioè, darebbe a suo figlio. Un marchio. Guarda che questa cosa la vivono migliaia di omosessuali con grande realismo, evitando proprio di diventare delle piccole icone o dei piccoli propagandisti. Magari ci sono persone che si battono per i diritti, che sono un po', cioè che vuol dire, che discutono di questa cosa apertamente, esternando la propria omosessualità. Non si può nascondere che per molti anni è stato un problema. Lo dico pubblicamente per la 150ª volta. Lo dica pubblicamente. Che se quando qualcuno ha la cortesia di indicarmi nel codice civile, nel nostro ordinamento, dove questi diritti vengono conculcati, me lo indichi che cambiamo il codice civile. No, ma che siano conculcati, io sono d'accordo con lei che non siano conculcati. Nessuno mi indica che cosa deve essere modificato. Dunque, secondo lei non deve cambiare nulla da questo punto di vista? No, mi dicono dove cambiare. No, per secondo lei, dico, è una domanda, non deve cambiare nulla. Quando mi dicono la casa, ma dico, ma se due si vogliono così bene, ma perché quando la casa la comprano non se la cointestano? Ma se due omosessuali vivono assieme e hanno l'affitto, perché non si cointestano il contratto d'affitto? Beh, così ci sono tutti gli strumenti, sì, per ottenere. Certo, le successioni sono più difficili, perché di solito ci sono anche magari un'ex moglie, un ex marito, certo, anche la coccia c'è un ex marito, no? Allora... è stata sposata, poi ha sviluppato un orientamento diverso, ci sono dei diritti dei familiari che comunque sì, ci sono, quindi andiamo nelle complicazioni, sì, come quando uno si sposa due volte, che fa nascere delle situazioni. Senta, ma a proposito della concia, Giovanardi, ma mica avrà sbagliato andare in giro con la sua donna mano nella mano? Non è stata ostentazione quella, no? Quando incontro persone mano nella mano non è affatto ostentazione. Cioè, voglio dire, hanno sbagliato quelli che hanno insultato la concia. Una settimana altre 2 o 3 donne che non ostentavano nulla sono state massacrate, uccise, sì, semplicemente perché non accettavano la fine di una relazione. Sì. Cioè, a un uomo con il quale erano state, gli hanno detto non intendo più stare con te. Sì. Massacrate. Allora, no, ma voglio dire, hanno sbagliato quelli che hanno insultato. Assolutamente sì. Ah, no, appunto. Ma voglio dire che però il mondo è pieno di persone violente, sì, che pensano di poter insultare, ma non solo. Le altre persone quando non sottostanno al loro punto di vista. Sì, no, ma no. Le cose se... da raddrizzare, purtroppo, ce ne sono tantissime. Allora, Agnelli imitato da Albertini nel famoso incontro con Berlusconi, sentiamo. La patonza deve girare. Questa è la frase. Grazie Giovanardi, buona serata. Arrivederci. Buona serata, buona serata. A presto, in studio lo vogliamo Giovanardi prima o poi, caro Parenzo. Sempre. Quando è venuto in studio, ragazzi. Dove vai? Vado a fare la trasmissione. Lombardia Channel. Poi ci vediamo domani. Domani sono lì alle 18:30. Ci vediamo domani, 20 e 29. Poi mangiarci una pizzetta magari dopo le 21. Vediamo. 20 e 29, 800 24 00 24. Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo, voglio ascoltare. La patonza deve girare. La patonza deve girare. Questo fu lo straordinario commento, fu lo straordinario commento di Gianni Agnelli di fronte a Berlusconi quando si raccontarono, così riporta l'ex sindaco di Milano Albertini, si raccontarono di aver avuto una donna in comune, un flirt in comune. Secondo quanto ci ha detto prima Giovanardi, in realtà le donne in comune potrebbero essere state più di una, perché insomma i due si davano molto da fare. Che abbiamo poi? Qualcos'altro da mettere o no? Parenzo se n'è andato, come ogni lunedì. Roba politica di oggi. Berlusconi umiliante, l'abbiamo sentito. La vecchietta, sì, voglio risentire la vecchietta. La vecchietta pro Berlusconi, che è una sorta di Annarella di destra fuori dal tribunale. Sentite. Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto. Perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio! Il famoso audio di Romani sulla Prestigiacomo, rubato da Repubblica. Se quella matta della Prestigiacomo non mi fa arrabbiare, in realtà non ha detto arrabbiare, ma incazzare, via. Se quella matta della Prestigiacomo non mi fa incazzare ancora oggi, perché vorrebbe la ministra dell'ambiente, lo dico perché sono un po' arrabbiato, ci ho lavorato tutta la notte, quindi ve lo dico veramente. Qualcuno, qualche estremista, purtroppo alla mente ce ne sono ogni tanto un bel po', qualche estremista vorrebbe che l'incentivo venisse fermato. Si discute degli incentivi sulle rinnovabili, eccetera, eccetera. Il commento di Romani è stato: ormai non si può dire più niente in privato. In realtà è vero, non si può dire più nulla in privato, soprattutto se di fronte ci sono le telecamere. Ma non è la colpa non è di chi riprende, di chi mette le telecamere, la colpa è di chi dice le cose. È iniziata tutta la dietrologia su Bin Laden, come è evidente e come era scontato. Già oggi in qualche trasmissione si è sentito Giulietto Chiesa dire: beh, se non si vede il corpo, finora non abbiamo visto nulla, chissà cos'è accaduto. Inizia tutta una dietrologia che ci accompagnerà, credo, per i prossimi 10 anni. Se sparisce il corpo, ci sono ancora più dubbi. Sparisce il cadavere di Osama Bin Laden e i dubbi su questa situazione diventano giganteschi, perché l'unico modo per dirci qualche cosa era di farci vedere questo cadavere. Se lo hanno buttato in mare, io apro 250 interrogativi su quello che è accaduto questa notte o l'altra notte o la notte in cui è accaduto. È evidente, mi pare chiaro. Mi pare chiarissimo anche a me, come mi pare chiaro che ci sono dei candidati in tutta Italia alle elezioni locali che vogliono farsi un po' di pubblicità. È scontato anche questo. Sentite, parallelamente alla vecchietta di prima, un tale Piccardo, non so manco come si chiama di nome, ma chi se ne frega, ed è un candidato, credo, di Vendola a Milano. Il modo in cui, tenero direi, si rivolge a Berlusconi, sempre fuori dal tribunale oggi. Silvio, fai schifo! Silvio, mi fai vomitare! È una merda! Merda! Silvio, sei una merda! Silvio, sei una merda! Merda! Silvio! Merda! Silvio! Merda! Silvio! Merda! Questo è un candidato alle elezioni comunali a Milano. Si chiama Davide Piccardo. Bene, ascoltatori, 800240024, Antonio da Taranto. Buonasera. Antonio, buonasera. Che sta facendo? Sì, buonasera. È con sua figlia, che fa? Stavo mangiando una pizza. Una pizza, come? Una pizza come? Come la mangio sempre, Napoli. Napoli, bene. Bene. Perché ho aspettato parecchio. Ha ragione, abbiamo avuto un po' di... Vabbè, comunque, guardi, l'ascolto da sempre e ho visto anche il cambiamento dell'impostazione della trasmissione. Vabbè, non parliamo di quello, parliamo di cose concrete, Antonio. Di cose concrete. Il fatto di Albertini, che mi ha, all'inizio della trasmissione, sì, che mi ha un po' colpito, la facilità con cui si cambia atteggiamento nel Popolo della Libertà. Cioè? Su Gheddafi, dice lei. Su Gheddafi, sì, esatto. Ma io non lo so come la pensava Albertini prima, so come la pensava Berlusconi, è passato dal baciamano o dal Gheddafi, non dobbiamo disturbarlo, ai bombardamenti, ma quello fa parte, come dire, della realpolitik, se vogliamo dirla, sì, tutta. Ma è una realpolitik però che... Sì, al di là degli atteggiamenti, però Antonio, al di là degli atteggiamenti, gli affari con Gheddafi, le trattative con Gheddafi, le facevano tutti, destra, sinistra, centro, sì, non tutti, è un problema. Però, poi Berlusconi ha un modo diverso dagli altri, lo sappiamo, però gli affari li facevano tutti. Ricordo che D'Alema, quando quando fu firmato il trattato di amicizia tra Italia e Libia, firmato da Berlusconi, disse apertamente che il primo, come dire, che era stato un trattato cui aveva partecipato attivamente, era stato anticipato dalla sinistra italiana, cioè rivendicando il merito di aver portato Berlusconi a firmare quel trattato. Di questo stiamo Cruciani, parlando. Dottor Cruciani, ma lei mi ha parlato di D'Alema, ma io D'Alema lo vedo pure con ho capito, ma D'Alema come io non so come lo vedrei D'Alema. Sto dicendo che il centro-sinistra italiano, ha avuto nei confronti di Gheddafi lo stesso atteggiamento, al netto dei comportamenti, al netto del baciamano, di una cosa o dell'altra, lo stesso comportamento che ha avuto Berlusconi, cioè quello di trattare finché è stato possibile. Poi naturalmente non è stato più possibile per Realpolitik. Stiamo bombardando e bombardiamo. Cosa vuole che le dica? Bombardiamo, sì. Che poi in realtà non si può dire nemmeno bombardiamo, dice qualcuno. No, si sta bombardando, si sta facendo la guerra. Albertini ha detto da noi, che è presidente della Commissione Estera del Parlamento Europeo, uomo di spicco del PDL in Lombardia, ha detto che per lui bisognerebbe anche uccidere Gheddafi. Per cui sarebbe meglio uccidere Gheddafi. Infatti, cioè è la facilità con cui girano la frittata nel Popolo delle Libertà. Ma non è nel Popolo delle Libertà, la politica estera, ma secondo me poi tutta la politica è fatta di queste cose qui, cioè è fatta di compromessi, di cambiamenti di situazioni, di fronti che si ribaltano. Di che stiamo parlando? Cioè è così. Poi possiamo fare tutte le ironie che vogliamo, mandare in onda Berlusconi prima, Berlusconi dopo, ma la politica estera in generale, tutta la politica è fatta anche di queste cose qui, al di là del nostro ruolo che sarà minore rispetto ad altri eccetera, però di questo stiamo parlando. Cioè non è che tutti contro Gheddafi, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, e noi li stiamo dobbiamo baciare la mano a Gheddafi perché prima ci abbiamo fatto un trattato. È evidente che ci siamo trovati in difficoltà, però a un certo punto abbiamo seguito la comunità internazionale con grandi contraddizioni, grandi dubbi e qualche parola di troppo o di meno, no? Bene. La ringrazio. Grazie a lei. Cruciani. Dove andiamo? La ringrazio. Arrivederci. Giancarlo da Vicenza, eccoci. Stavo mangiando. Fatemi andare via stasera, vorrei vedere la partita in pace. Sto scherzando, Giancarlo. Scherzo. Dica. Sì, buonasera. Stavo mangiando il risotto di mia moglie, una specialità, perché qui da noi ci sono gli asparagi di Cassano. Risotto agli asparagi. E quindi il risotto con gli asparagi, sì. E quanto di più un italiano in questo momento potrebbe aspettarsi da una moglie. Adesso, insomma, è sua moglie che le ha cucinato il risotto con gli asparagi? Risotto con gli asparagi. Risotto. Sì. Poi il secondo no? No, il secondo no. La sera lei si vuole tenere leggero, va bene. Poi mi devo dedicare alle farfalle. In che senso, scusi? Io sono il farfallaio d'Italia. Cioè? E sono stato diverse volte anche in televisione a parlare del museo, della mia azienda, delle cose che abbiamo fatto con la mia famiglia. Cioè lei è il farfallaio d'Italia. Che significa il farfallaio d'Italia? Che vuol dire? Scusi, sono curioso. Sono stato battezzato il farfallaio d'Italia dai miei parenti che ho a Santa Luce, provincia di Pisa, perché già in gioventù, quando avevo 10-12 anni, andavo laggiù a cercare tutte le specie e sottospecie di farfalle che vivono. Cioè lei è un allevatore di farfalle? Un entomologo, benissimo, un entomologo. Dove ce l'ha tutte queste farfalle? In provincia di Vicenza, là? Io ho fatto un museo a Schio, provincia di Vicenza, di 2000 metri quadri. Addirittura. E dentro sono contenute tutte le specie e le sottospecie delle colonie di farfalle che vivono in Italia. Sono oltre 10.000 specie di farfalle. Fantastico. Ecco, sono esposte innanzi alle gigantografie degli ambienti naturali dove le farfalle vivono, sulle Alpi, sugli Appennini e quindi dai ghiacciai al mare, insomma, una cosa meravigliosa. Sono stato da Magalli, sono stato anche in una trasmissione con Mike Buongiorno proprio pochi mesi prima che purtroppo morisse. Ho avuto questa fortuna di conoscerlo, insomma. Caro farfallaio d'Italia, al di là di queste cose che ci fanno molto piacere, per naturalmente. Un po' di pubblicità del museo, perché no, va bene. Si faccia pubblicità, assolutamente. Museo delle farfalle di Giancarlo. Museo delle farfalle a Schio, provincia di Vicenza. Vabbè. Adesso non cominciamo, sennò altrimenti cominciano a chiamare gli ascoltatori. Faccio pubblicità alla fondazione alla fondazione di lì. Vale sempre la pena, insomma, di accennarla. Vabbè, comunque Giancarlo, di che ci voleva parlare? Solo che quando che giro proprio per queste farfalle, anche sulle nostre montagne, eccetera, purtroppo molte volte rimango un po', diciamo, scioccato da tante cose che vedo, perché purtroppo deturpano molto le nostre montagne per fare le piste da sci, per fare questi impianti. Vabbè, Giancarlo, andiamo, andiamo al sodo, su, di che ci voleva parlare? Soprattutto in zone di guerra dove la nostra bandiera e i nostri genitori, mio padre ha fatto la guerra di Russia, di Albania. Va bene. E quindi, ecco, e prima quando avete parlato di Berlusconi, della barzelletta della mela, mi ha fatto un certo, mi ha colpito insomma molto, perché mi ha colpito il primo giorno che io quella barzelletta l'ho sentita, ecco, proprio perché subito dentro di noi, diciamo che tutti gli italiani sicuramente hanno qualcosa di goliardico, per cui di fronte a certe battute magari ti fanno un sorriso, però quello che mi ha fatto rizzare i peli delle braccia era vedere la striscia tricolore che era sui sindaci, insomma, ecco. Quindi in ambiente istituzionale io, guardi, direi io sono dell'idea che le barzellette di Berlusconi, per carità, senza le barzellette in pubblico non sarebbe Berlusconi, anche se una volta in realtà non è che le diceva con la stessa frequenza o non le pronunciava con la stessa frequenza, però tutte le persone cambiano, cambia anche Berlusconi. Io credo che ci vorrebbero un po' di barzellette in meno in pubblico, ma questo è scontato, cioè quando uno dice una cosa scontata dico una cosa politicamente corretta, cioè Berlusconi dovrebbe raccontare meno barzellette in pubblico, se vuole le racconta con i deputati, alle cene, quello che vuole, in pubblico non dovrebbe raccontare molte barzellette. Però dicendo questo, nello stesso tempo mi accorgo di essere un po' ridicolo, perché è come se io in qualche modo desiderassi un altro Berlusconi, o come ognuno di noi non può desiderare da una persona quello che quella persona non può dare. Cioè Berlusconi non può essere un altro, cioè è questo, cioè racconta le barzellette in pubblico. Prima lo faceva meno, adesso lo fa un po' di più, però la sostanza non cambia. È quello lì Berlusconi, racconta le barzellette in pubblico. Prima avevo per le mani, adesso non ce l'ho più, un libro di barzellette di Berlusconi, che lo stesso Berlusconi in qualche modo ha vidimato, ce ne sono diversi, per cui insomma, non sono d'accordo con lei, però nello stesso tempo mi sento un po' ridicolo a dire questa cosa. Giancarlo, traffico, torniamo tra un attimo. Sì, eccoci, 20:47, volata finale della Zanzara, 800 24 00 24. Giuseppe, provincia di Chieti, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Dunque, mi dispiace che il suo aiutante se n'è andato. Ma non è mio aiutante, sì, è anche mio aiutante, insomma, aiutante di campo, lei dice, no? Come sì, nelle guerre. Aiutante, più del suo aiutante non potrà farlo nella vita. Esagerato. È un bolscevico, lui rappresenta... Ancora con sto bolscevico, Giuseppe, ha le sue idee, un po' anti-berlusconiano, ogni tanto ha qualche pregiudizio su Berlusconi, ma anch'io ho tanti pregiudizi, vita mia. Cioè, no, ma quello che mi fa incazzare, veramente, chiedo scusi per l'espressione, volevo usare incavolare, ma dico incazzare, cioè lui dice che Berlusconi non può rappresentare al Vaticano gli italiani. Ma io dico perché? Lui ha la sua idea, siccome Berlusconi ha fatto quello che ha fatto, o comunque ha un certo tipo di vita privata, lui dice che non, secondo Parenzo non si dovrebbe presentare in Vaticano. Secondo me è una follia quella che dice Parenzo. Detto questo, poi... allora glielo dico io, Giuseppe, si accontenti del fatto che glielo dico io. Poi se lei vuole dirgli che è un bolscevico, che è, a parte che non capisco cosa significa bolscevismo in questo caso... No, cosa... glielo spiego che cosa significa essere bolscevico. Essere anti-italiano, no? No, ma anti-italiano, adesso che vuol dire anti-italiano? Non... Questo secondo me è una cosa sbagliata che dice Parenzo, non è, ma non è mica un problema, cioè, anch'io dico tante stupidaggini. Io dico che Berlusconi è stato votato e rappresenta l'italiano medio a cui piacciono le donne. Ma in teoria non è che dovrebbe rappresentare l'italiano medio, lei dice rappresenta l'italiano medio a cui piacciono le donne. Giuseppe, uno non è che, scusi un attimo, non è che uno viene votato in quanto espressione dell'italiano medio cui piacciono le donne. In teoria viene votato per governare, eccetera, non è che rappresenta. Poi se noi vogliamo fare un'analisi sociologica del fenomeno Berlusconi, potrebbe pure essere vero quello che lei dice, però insomma mi pare senta, piuttosto riduttivo. Glielo dica lei alla sua aiutante che cambiasse mestiere. Ma perché dovrebbe cambiare mestiere? La pensa diversamente da me su alcune cose. Perché è un bolscevico. È un bolscevico, vabbè, è un bolscevico. Lo cacceranno come hanno cacciato l'altro bolscevico Telese. Ma che c'entra Telese adesso? Cosa c'entra Telese? Non è che hanno cacciato Telese perché era bolscevico. Nessuno ha cacciato Telese innanzitutto. Ma comunque, insomma, ripeto, non c'è... Non c'è questo, non l'hanno cacciato, glielo dico io che non l'hanno cacciato. Ma lei deve dire che non l'hanno cacciato, però Da quello che risulta l'hanno cacciato. Da quello che risulta. Lei non può dire che l'hanno cacciato. Lei è forte però, lei è forte Giuseppe, grazie. Sono grazie. 12 anni, lei è un grande, è un va grande. Va bene, grande. Buonasera, grazie. Buonasera. Maria Cristina da Modena, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io volevo soltanto sostenere il mio concittadino senatore Giovanardi. Su che cosa lo voleva sostenere? Su quello che diceva prima a proposito del discorso delle due persone, degli omosessuali che si baciano in piazza, perché mi sembra che sia una cosa, un'ovvietà che non debbano farlo. Perché mi sembra come non che debbano farlo? No, mi scusi. Non si debba fare dell'eccezione la regola. Io non li condanno. Se avessi un figlio omosessuale, gli vorrei più bene rispetto a agli altri. Lo aiuterei di più degli altri, capisco tutto, però non credo che si debbano dare questi esempi in piazza. No, però mi scusi signora, cara signora Maria Cristina, a lei può dare fastidio, io non come dire, non contesto il fastidio, è una cosa personale, scusi un attimo, mi faccia parlare. Non contesto il fatto che a lei possa dare fastidio o a qualcun altro possa dare fastidio. A me sinceramente non me ne frega niente se vedo due donne o due uomini che si baciano, non mi fa nessuna impressione. Lo considero una cosa abbastanza normale. Mi posso voltare, non sono ipocrita, non sono ipocrita. Magari mi può capitare di voltarmi, non è frequente. Le volte che mi è successo mi sono voltato come una cosa inusuale, in quel senso lì. Cioè come una cosa che non ti capita frequentemente. E allora ti volti, non ti volti allo stesso modo se vedi due eterosessuali, non voglio essere ipocrita su questo, ti volti perché comunque è una scena che non vedi abitualmente. Però da qui al fastidio ce ne corre, insomma, o no? Ma non è questione del fatto che io ho insegnato a scuola, ho avuto degli scolari che avevano delle lontanissime tendenze in questo senso, visto che oggi se ne fa una bandiera. E allora? Loro, ma chi ne fa una bandiera? Chi l'ha detto che se ne fa una bandiera? Chi lo sostiene? Quando ero ragazza io non era così, c'erano, facevano le loro cose separatamente, come poi tutti dovrebbero fare delle loro cose personali. Abbiamo la legge sulla privacy, adesso tutto è privacy, allora le fusioni lasciamole alla privacy. Che bisogno c'è di esibire? E un uomo e una donna che si baciano? Perché sono esibizioni, perché le persone normali non hanno bisogno di farsi vedere. No, ma scusi un attimo, ci sono un sacco di coppie, uomini e donne che si baciano tranquillamente in pubblico, anche in maniera piuttosto appassionata, e nessuno dice nulla. A parte il fatto che io trovo che chi le cose le fa sul serio non ha bisogno di farle in pubblico. Vabbè, ma ho capito, ma che significa, Maria Cristina? Cioè, ognuno è libero di esternare nei limiti della decenza come vuole, di esternare il proprio amore, la propria passione come vuole, nei limiti naturalmente della decenza. Però non capisco perché una cosa che non è naturale, perché dicevate prima, io la legge, la Costituzione, tutto quanto... No, lei parte da questo presupposto che non è naturale, questo è il punto, che non è normale. E se lei parte dal presupposto che non è normale, allora è evidente che figuriamoci il bacio in pubblico. Sto dicendo che l'unione tra due esseri dello stesso sesso non è riconosciuta a nessun livello, perché è condannata, tra virgolette, dappertutto. Nel senso, ma non è vero, ma chi l'ha detto che è condannata dappertutto? Non è vero per niente. È la normalità. Ma in molti paesi è la normalità di... Ma non è vero niente, perché non è vero. E comunque guardi, a proposito del fatto che prima lei diceva perché il senatore Giovanardi dice che gli dà fastidio, io ho tre figli di tre età diverse, 23, 30 e 27. Non sono dei cretini, sono dei ragazzi moderni. E allora? Che hanno girato il mondo, sono tutti d'accordo con me. E loro, io non ho ancora sentito nessuno che sia... Sono tutti sulla linea di Giovanardi. Non lo so, ma forse evidentemente sono io che non ho capito, che non capisco l'Italia, non capisco il mondo. Secondo me invece è esattamente il contrario. Non lo so, se partiamo da presupposti diversi, io tutte le persone che conosco io la pensano come me. Va bene, Maria Cristina, evidentemente sono io che non ho il polso della situazione. Io le posso dire quello che penso io. Cioè che, però non mi può dire che la normalità, c'è una normalità e una anormalità. La normalità è quella di oggi, in cui esistono coppie omosessuali, e non vedo perché le coppie omosessuali non debbano esprimere la loro passione in pubblico come fanno tranquillamente le coppie eterosessuali. Non vedo dove sia il problema. Perché non è un buon messaggio neanche per i giovani, perché credo che i giovani debbano imparare come stanno le cose da un punto di vista di normalità. Ho capito, ma diverse avranno nessuno. Sì, ma lei parte, ho capito benissimo, lei parte evidentemente da un presupposto che non è... Per esempio, nella vita giusta, l'unica cosa che conta è l'esempio. Allora, se io sono ho capito, ragazza, secondo lei c'è una situazione di normalità e una situazione di anormalità, cioè partiamo da due presupposti completamente diversi, ma devo passare ad un altro ascoltatore perché sto per chiudere, è un minuto. Allora andiamo a Massimiliano da Milano, velocemente. Sì, sarò velocissimo, eviterei di entrare nella questione normalità e anormalità perché è lunghissima. Mi limito solo a chiederle se secondo lei è giusto, o non so trovare un altro aggettivo, appunto, che uno le effusioni di qualunque tipologia esse siano, uno le vada a fare in mezzo alla strada. Semplicemente con l'idea che. No, ma queste sono stupidaggini, Massimiliano. Se ne parla solo perché ci sono in ballo due omosessuali. Se non si parlasse solo di altro. Che vuol dire le effusioni in piazza, le effusioni in pubblico? C'è un codice penale che prevede l'offesa o cose di questo tipo, e per cui se uno esagera viene multato, viene eccetera eccetera, per cui non capisco dov'è il problema, francamente. Ma le dico che se io dovessi seguire il suo ragionamento non ci dovrebbe essere nessuna multa, perché va bene tutto. Ma perché lo dice a me? Ho capito, ma a lei le dà fastidio, le danno fastidio due omosessuali che si baciano? Ma è un problema loro, dico, è tutto uguale a tutto? Se tutto è uguale a tutto, allora va bene, cioè che tutto sia uguale a tutto. Vabbè, a me non sembra che sia tutto uguale a tutto. Il discorso si fa complicato, ci sentiamo domani 18:30, ciao. La zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. E la Patonza deve girare. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare. Radio 24, la passione. Si sente.